Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Il brigadiere guardava inquieto la strada e pensava stipendio e spese, moglie e stipendio, televisione e stipendio, bambini ammalati e stipendio. Il carabiniere autista pensava Europa di notte, che aveva visto la sera prima, e Cosinel, che era un uomo, e com'è possibile, e vorrei vedere com'è uomo. E dietro questo pensiero, più visione che pensiero, c'era sommessa, nascosta, che il capitano non gliela scoprisse, la preoccupazione che non aveva mangiato in caserma, e chissà se faceva in tempo a mangiare coi carabinieri di esse. E il capitano, che era un diavolo d'uomo, invece gliela scoprì. Disse che a esse loro due, brigadiere e autista, avrebbero dovuto arrangiarsi a mangiare qualcosa. E si rammaricava di non averci pensato prima della partenza. Il carabiniere arrossì. Pensò, è buono, ma legge le cose che ho in testa, che non era la prima volta. Il brigadiere disse che non aveva appetito e senza mangiare poteva restare fino all'indomani. A esse, il maresciallo, che non era stato avvertito, venne fuori col boccone in gola e rosso per la sorpresa e per il dispetto. L'arrosto di castrato era rimasto sul piatto. Freddo sarebbe stato disgustoso e a riscaldarlo ancora di più. Il castrato va mangiato caldo, col grasso che sgocciola ancora e odoroso di pepe. Basta, facciamo penitenza, vediamo che novità c'è. Novità ce n'erano. Il maresciallo abbozzò approvazione, ma che ci fosse un rapporto tra l'uccisione di Colasberna e la scomparsa di Nicolosi, in verità del tutto convinto non era. Fece chiamare la vedova, due o tre amici di Nicolosi, il cognato. Disse così al carabiniere la vedova, che per essere morto era morto, dubbio non ne aveva. Un uomo tranquillo come Nicolosi non scompare per tanto tempo, se non per la semplice ragione che è morto. E intanto propose al capitano di prendere un boccone. Il capitano rifiutò, disse di avere già mangiato. «Hai mangiato», pensò il maresciallo, e il suo rancore fu gelido come ormai il grasso intorno alle costolette di castrato. Era bellina, la vedova, castana di capelli e nerissimi gli occhi, il volto delicato e sereno, ma nelle labbra il vagare di un sorriso malizioso. Non era timida. Parlava un dialetto comprensibile. Il capitano non ebbe bisogno che il maresciallo facesse da interprete. Alla signora stessa domandava il significato di certe parole. E lei qualche volta riusciva a trovare la parola italiana o con una frase in dialetto spiegava il termine dialettale. Il capitano aveva conosciuto molti siciliani, nella vita tra i partigiani e poi tra i carabinieri. E aveva letto Giovanni Meli con le note di Francesco Lanza e Ignazio Buttitta con le traduzioni a fronte di Quasimodo. Quel giorno il marito si era alzato verso le 6. Lei lo aveva sentito alzarsi al buio che non voleva svegliarla. Così faceva ogni mattina. Era un uomo pieno di delicatezza. Disse proprio così. Era. Sulla sorte del marito, evidentemente, anche lei era dell'opinione del maresciallo. Ma lei, come ogni mattina, si era svegliata e come ogni mattina gli aveva detto «Il caffè è già pronto nella credenza, basta riscaldarlo» e si era riaddormentata, non proprio riaddormentata, come sospesa sul sonno che la chiamava. Sentiva il marito muoversi in cucina, poi gli sentì scendere le scale, aprire dalla strada la porta della stalla. Il tempo che il marito preparasse il mulo, 5-10 minuti, e il sonno in lei si era di nuovo rappreso. Un suono metallico lo sciolse, che il marito era tornato su a prendere le sigarette e al buio, annaspando sul comodino, aveva fatto cadere il piccolo sacro cuore d'argento, un regalo della zia superiore, zia di lei, superiore al monastero dell'Immacolata. Lei fu quasi sveglia, chiese «Che c'è?». Il marito rispose «Niente, dormi, avevo dimenticato le sigarette». Lei disse «Accendi la luce», che ormai aveva il sonno rotto. Il marito disse che non c'era bisogno e poi le chiese se aveva sentito due colpi che erano stati sparati nelle vicinanze o se era stato lui, facendo inavvertitamente cadere il Sacro Cuore a svegliarla, perché era fatto così, capace di farsi una giornata di rimorso per averla svegliata. Le voleva bene davvero. Ma lei aveva sentito i due colpi? No. Io ho il sonno leggero per i rumori della casa, per i movimenti di mio marito, ma fuori possono anche succedere i fuochi di Santa Rosalia e non mi sveglierei. E poi? Poi la luce l'ho accesa io, la lampada piccola che è dal mio lato. Mi sono levata a mezzo del letto e gli ho domandato cos'era accaduto con quei due colpi che erano stati sparati. Mio marito disse: «Non lo so, ma ho visto passare di corsa chi?» domandò il capitano, nell'improvvisa emozione, protendendosi sulla scrivania verso la donna. Uno sgomento improvviso sconvolse i lineamenti di lei, la fece per un momento brutta. Il capitano tornò ad appoggiare le spalle alla sedia. Calmo, chiese di nuovo: «Chi?» Disse un nome che non ricordo, o forse un soprannome. Pensandoci bene, poteva essere un soprannome. Lei disse: «Ingiuria», e per la prima volta il capitano ebbe bisogno dei lumi interpretativi del maresciallo. «Soprannome», disse il maresciallo, «qui quasi tutti hanno soprannomi e alcuni così offensivi che sono propriamente ingiurie». «Poteva essere un'ingiuria», disse il capitano, «ma poteva anche essere un cognome strano come un'ingiuria». Lei non aveva mai sentito prima il cognome o ingiuria che pronunciò suo marito? Cerchi di ricordare, è molto importante. Forse non l'avevo mai sentito prima. Cerchi di ricordare. E intanto mi dica cos'altro disse o fece suo marito. Non disse più niente, se ne andò. Da qualche minuto la faccia del maresciallo era raggelata nella più minacciosa incredulità, da quando la donna aveva mostrato improvviso sgomento. Quello era, secondo il maresciallo, il momento buono per farglielo crescere, lo sgomento, per farle tanta paura da costringerla a dirlo quel nome o soprannome, che quant'è vero è Dio, lei ce l'ha stampato in mente, ce l'ha. E invece il capitano era diventato ancora più gentile del solito. «Ma chi crede di essere, Arsenio Lupin?» pensava il maresciallo nei suoi lontani ricordi di letture, scambiando per poliziotto un ladro. «Cerchi di ricordare quell'ingiuria», disse il capitano, «e intanto il maresciallo sarà tanto gentile da offrirci un caffè». «Anche il caffè», pensò il maresciallo, «che non si possa più dare una strigliata giusta, e va bene». «Ma il caffè poi?» Ma disse soltanto: «Signor Sé». Il capitano cominciò a parlare della Sicilia, più bella là dove è più aspra, più nuda, e dei siciliani che sono intelligenti. Un archeologo gli aveva raccontato con quale abilità e alacrità e delicatezza i contadini sanno lavorare negli scavi, meglio degli operai specializzati del nord. «E non è vero che i siciliani sono pigri, e non è vero che non hanno iniziativa». Venne il caffè e parlava ancora della Sicilia e dei siciliani. La donna lo prese a piccoli sorsi con una certa eleganza per essere moglie di un potatore. Sorvolando il panorama letterario siciliano, da Verga al Gattopardo, il capitano era andato a posarsi su quella specie di genere letterario, diceva, che erano i soprannomi, le ingiurie, che spesso, acutamente, esprimevano in una parola un carattere. La donna non capiva molto, e nemmeno il maresciallo, ma certe cose che la mente non intende, il cuore le intende. E nel loro cuore di siciliani le parole del capitano musicalmente stormivano. «È bello sentirlo parlare», pensava la donna, e il maresciallo pensava: «Per parlare sai parlare, meglio di Terragini», che per lui era, idea a parte, si capisce, il più grande parlatore che in tutti i comizi che per servizio gli toccava di sentire avesse mai incontrato. Ci sono ingiurie che colgono i caratteri o i difetti fisici di un individuo, diceva il capitano, e altre che invece colgono i caratteri morali. altre ancora che si riferiscono a un particolare avvenimento o episodio, e ci sono poi le ingiurie ereditate, estese a tutta una famiglia, e si trovano anche sulle mappe del catasto. Ma procediamo con ordine. Le ingiurie che dicono dei caratteri e dei difetti fisici, le più banali, l'orbo, lo zoppo, lo sciancato, il mancino, somigliava a qualcuna di queste l'ingiuria che disse suo marito? No, disse la donna scuotendo la testa. Le somiglianze, ad animali, ad alberi, a cose, per esempio il gatto, per un uomo che ha gli occhi grigi o qualcosa che lo fa somigliare a un gatto. Ho conosciuto uno soprannominato Luchiuppu, cioè il pioppo, per la statura e per una specie di tremito che lo muove, così mi hanno spiegato. Le cose, vediamo un po', soprannomi per somiglianza a un qualche oggetto. Conosco uno soprannominato Bottiglione, disse il maresciallo, e ha davvero forma di un bottiglione. Se permette, disse il carabiniere Esposito, per la sua immobilità divenuto come invisibile in quella stanza, se permette, posso dirne qualcuna di ingiurie che sono nomi di cose. Lanterna, uno che ha gli occhi scasati come lanterne, pera cotta, uno che è fradicio di non so che malattia. Virquogu, albicocca, non so perché, forse perché di faccia inespressiva. Ostia divina, perché ha la faccia tonda e bianca come un'ostia. Il maresciallo tossì con significato. Non ammetteva che si facesse allusione scherzosa a persone o cose che in qualche modo avessero a che fare con la religione. Sposito tacque. Il capitano guardò interrogativamente la donna. Lei fece di no più volte, scuotendo la testa. Il maresciallo, con gli occhi che tra le palpebre parevano diventate due acquose fessure, violentemente si protese a guardarla, e lei precipitosamente, come se il nome le fosse venuto su con singulto improvviso, disse «Zecchinetta». «Zecchinetta», tradusse subito Sposito, «gioco d'azzardo, si fa con carte siciliane». Il maresciallo gli diede un'occhiataccia, che il momento della filologia era passato, ora avevano il nome, e che significasse gioco di carte o santo del paradiso non aveva importanza. E nella sua testa talmente squillavano i segnali della caccia, eccitandolo, che il santo del paradiso si trovò a battere il naso sulle carte siciliane. Il capitano, invece, si era sentito dentro, di colpo, oscuro scoraggiamento, un senso di delusione, di impotenza. Quel nome o ingiuria che fosse, era finalmente venuto fuori, ma solo nel momento in cui il maresciallo era diventato agli occhi della donna spaventosa minaccia di inquisizione, di arbitrio. Forse quel nome lei lo ricordava fin dal momento che il marito lo aveva pronunciato, e non era vero che lo avesse dimenticato. O soltanto nell'improvvisa disperata paura lo aveva ritrovato nella memoria. Ma senza il maresciallo, senza quella sua minacciosa materializzazione, un uomo grasso e bonario che di colpo diventa colata di minaccia, al risultato di quel nome, forse, non si sarebbe arrivati. «Il tempo di farmi la barba», disse il maresciallo, «e saprò se questo Zecchinetta è uno del paese. Il mio barbiere conosce tutti. Vai», disse il capitano stancamente. «E il maresciallo, e che gli prende?» si domandò. E gli prendeva nella delusione nostalgia. La striscia di sole che cadeva in un pulviscolo dorato sul tavolo illuminava il frullo delle ragazze in bicicletta nelle strade dell'Emilia, la filigrana degli alberi in un cielo bianco e una grande casa dove la città si abbandonava alla campagna, dolcissima nel lume della sera e del ricordo. «Dove tu manchi», si diceva con le parole di un poeta della sua terra, all'antica abitudine serale, parole che il poeta aveva scritto per un fratello morto, e nella pietà di sé lontano e nella delusione il capitano Bellodi un po' morto si sentiva. La donna lo guardava con apprensione. Tra loro era quella striscia di sole che batteva sul tavolo e li separava in una lontananza che per lui aveva senso di irrealtà e per la donna invece una qualità ossessiva, d'incubo. Che uomo era suo marito? Domandò il capitano. E nel fare domanda scoprì che veniva naturale chiederne come se fosse morto. La donna non capì, smarrita com'era nei propri pensieri. Desiderò sapere che carattere aveva, quali abitudini, quali amici. Era buono. Il lavoro, la casa, le giornate che non lavorava andava a passare qualche ora al circolo dei coltivatori diretti, la domenica al cinematografo con me. Aveva pochi amici, bravissime persone, il fratello del sindaco, una guardia municipale. Aveva avuto mai liti, questioni di interesse, inimicizie? Mai. Era anzi ben voluto da tutti, non era del paese, e qui i forestieri si trovano sempre bene. Già, non era del paese. E lei come l'ha conosciuto? Lui ha conosciuto me, ad un matrimonio. Un mio parente sposava una del suo paese, io sono andata al matrimonio con mio fratello. Lui mi ha vista, e quando quel mio parente è tornato dal viaggio di nozze, lui gli ha dato incarico di venire da mio padre per chiedermi in moglie. Mio padre si è informato, poi ne ha parlato a me, dice è un buon giovane, ha un mestiere d'oro, e io dico che non so che faccia ha, che voglio prima conoscerlo. È venuto una domenica, non per fidanzamento, come amico. Ha parlato poco, per tutto il tempo mi ha guardata come fosse in incantamento. Ha fatturato, come se gli avessi dato fattura. Diceva per scherzare, si capisce. Mi sono persuasa a sposarlo. E gli voleva bene? Certo, eravamo sposati. Tornò il maresciallo. Olezzava Colonia da barbiere. Disse niente e si spostò alle spalle della donna a figurare per il capitano una frenetica mimica che voleva dire di mandar via la donna, che c'erano novità, cose dell'altro mondo apprese a carico della donna. Altro che zecchinetta, diceva una mano mulinata all'altezza della testa. La signora fu congedata. Ansante il maresciallo rovesciò la notizia che lei aveva un amante, un certo Passerello, esattore della società elettrica, notizia sicura, appresa da Don Ciccio il barbiere. Il capitano non mostrò meraviglia, domandò invece di Zicchinetta, sconvolgendo così la vecchia consuetudine di dar precedenza agli elementi passionali, se elementi passionali presenta, di un delitto. «Don Ciccio», disse il maresciallo, «esclude in modo assoluto che nel paese ci sia uno che abbia questo cognome o ingiuria. E per queste cose Don Ciccio è Cassazione. E se dice che il povero Nicolosi era cornuto, possiamo metterci sopra bollo e sigillo, che le corna ci sono. Sarebbe dunque il caso di prendere quel passerello e dargli una spremodina?» «No», disse il capitano. «Faremo invece una piccola gita, una visita al tuo collega di B». «Ho capito», disse il maresciallo, ma contrariato. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.